La storia di Margherita si svolge alla fine del 1200. A quel tempo sappiamo che buona parte dell'Italia era teatro di gravi discordie e di lotte incredibili. Ricordiamo in modo particolare, per esempio, la guerra tra i Guelfi e i Ghibellini. Dicevamo prima di iniziare l'excursus della vita di questa beata, di citare anche delle fonti storiche. Perché? È proprio per la particolarità della vita. Margherita di Città di Castello fu nominata per la prima volta dal francescano Ubertino da Casale nel 1325, nel suo Arbor Vitae. Ne era talmente impressionato questo francescano da parlarne a lungo nel suo libro. Poco dopo la sua morte un anonimo scrisse la prima biografia di Margherita. Uno dei canonici della cattedrale di Città di Castello, leggendo quel manoscritto, il primo manoscritto sulla vita di Margherita, lo trovò un tessuto di bugie, ci viene detto, e decise di smascherare quello scritto. Voleva far vedere che era una calunnia. Scovò e tormentò, ci viene detto, tutti quelli che avevano conosciuto la fanciulla. Fece ricerche negli archivi del municipio e della cattedrale a caccia di documenti che si riferissero a Margherita. Ebbene, terminata la sua lunga investigazione, dovette ammettere che l'anonimo biografo aveva detto la verità. E buona parte di questa vita sarà proprio tratta da questo canonico, che riscrisse poi la vita di Margherita nel 1345. Ma un'altra, ne furono poi riscritte altre due da padri domenicani, sia nel 1400 e un'altra nel 1397 precedente. Ma una sorgente di informazione preziosa ci viene, cari amici, soprattutto da una lunga relazione del 1600. E qui quella che aveva fatto questa stesura, alla quale che aveva richiesto direttamente il Papa, era stata fatta proprio da San Roberto Bellarmino. San Roberto, allora, il più eminente uomo di cultura del suo tempo. Fu incaricato dal Papa di condurre proprio un'indagine sui fatti riguardanti Margherita di Città di Castello. La sua relazione ha un enorme valore anche perché in essa sono citati antichi documenti che poi andarono perduti durante la guerra di Napoleone in Italia. Comunque, dopo questa relazione che lui diede al Papa, il Papa diede l'autorizzazione ai domenicani di celebrare il culto della beata, quindi come beata, della beata Margherita. Ma iniziamo adesso la vita di questa nostra beata Margherita. E andiamo nel cuore degli Appennini. A sud-est della Repubblica di Firenze c'era nel XIII e nel XIV secolo un possedimento nello Stato Pontificio detto Massa Trabaria, vicino Pesaro. La sua superficie era di sole 300 miglia quadrate, ma pur essendo così piccolo, i suoi potenti vicini, cioè Firenze, Arezzo e Perugia, se lo disputavano, sia per la sua posizione strategica sia per le sue preziose foreste. In questa zona, sulla cresta di un monte, c'era il castello di Metola. Il signore di questo castello era il potente Parisio. Parisio, a quanto sembra, non era dotato di molte virtù. Era un uomo terribilmente orgoglioso, senza scrupoli, indifferente alla sofferenza degli altri. Senza pietà verso chiunque gli attraversasse la strada. Perfettamente egoista e fanatico di se stesso, non era capace di affetto verso nessuno, a meno che non ne sperasse un vantaggio. Non credeva che Dio, seppure c'era un Dio, lui diceva, si interessasse degli uomini, di quello che facevano. Della moglie, Monna Emilia, si sa ancora meno, ci viene descritta come una donna di carattere debole, completamente sottomessa al marito. Perché parliamo di questi due personaggi? Perché proprio Monna Emilia diede alla luce Margherita nel 1287. Ma il giorno in cui nacque, la campana del castello, ci dicono i documenti, rimase silenziosa. Non ci fu banchetto, non divertimenti, non regali. La bimba aveva diversi handicap, da qui il dramma dei genitori. L'enorme orgoglio e il loro incredibile egoismo li rendeva incapaci di pietà e guardavano questa loro piccola con ira e con ripugnanza. Si sentivano quasi oltraggiati dalla natura che aveva osato, secondo loro, infliggere una disgrazia così brutta ai due personaggi più importanti della regione. Margherita era lontana dall'essere bella, ma la bruttezza era il minore dei suoi difetti. Era tanto piccola che si vedeva subito non avrebbe mai raggiunto una statura normale. Era anche gobba, e poiché aveva la gamba destra molto più corta della sinistra, era evidente che sarebbe rimasta anche zoppa. Ma non era finita qui. Una settimana dopo la nascita, i genitori scoprono che la bimba era completamente cieca. Appena si furono ripresi, Parisio ed Emilia decisero di tenere segreta la cosa. Ovviamente non si poteva nascondere la nascita della bambina, ma bisognava diffondere la notizia che la neonata era malaticcia e sembrava non dovesse vivere. Così infatti fu raccontato agli amici anche per spiegare i mancati festeggiamenti e il dolore dei genitori, dolore tra virgolette. Agli uomini poi della guarnigione, Parisio era il signore, quindi era il capitano, diciamo, di questo castello, fu dichiarato seccamente che sarebbe stato molto prudente non parlare della bambina. I soldati che conoscevano bene il loro comandante, proprio ricordando anche le crudeltà di quest'uomo, seppero ovviamente tenere la bocca chiusa. Intanto la donna, che aveva cura della bimba e la teneva in custodia, aveva l'ordine perentorio di tenerla nascosta tutte le volte che un visitatore arrivava alla mietola, al castello, e ce n'erano ovviamente tanti. Nel frattempo, proprio il sacerdote che era il curato della parrocchia della mietola e il cappellano anche del forte, chiese e desiderava che la bambina fosse battezzata. Questo significava però che la bambina doveva essere portata alla cattedrale di Mercatello. Infatti la mietola era della diocesi, la cattedrale era Mercatello, una cittadina che c'è ancora tutt'oggi, distante alcuni chilometri. Ma Parisio rifiutò, non ci pensava minimamente a far... Questo avrebbe, diciamo, fatto scoprire questa realtà, cioè questa bimba com'era. Comunque, il cappellano riuscì a convincerlo. Una cameriera di Emilia, discreta e fidata, quindi della moglie di Parisio, avrebbe portato la bimba a Mercatello. Ai genitori non importava quale nome le fosse imposto, purché non si chiamasse Emilia. Fu quindi la cameriera che scelse il nome di Margherita. Si potrebbe pensare, cari amici, che con l'andare degli anni i sentimenti dei genitori si addolcissero, che cominciassero almeno a mostrare un po' di compassione per questa piccola, ma non fu così. Il tempo cristallizzò, se non aumentò addirittura, la loro avversione per la figlia. Inutilmente il cappellano, che aveva cominciato a insegnarli i primi rudimenti, i primi insegnamenti di religione, parlò molte volte ai genitori della straordinaria intelligenza della loro bimba. E questo sarà uno dei tanti doni che il Signore farà poi, come vedremo, a Margherita. Ma comunque, questo entusiasmo lasciò i genitori freddi e privi di qualsiasi interesse. Insomma, a 5 anni, Margherita sapeva il nome di tutti gli uomini, le donne e i bambini del castello, poteva girarsi senza guida, ormai conosceva a menadito tutto, pur anche se era non vedente, poteva girarsi senza guida attraverso i vari passaggi del forte. Povera creatura affettuosa, faceva visita regolarmente a tutti, solo un posto evitava con cura, l'appartamento dei suoi genitori. Le avevano ordinato espressamente di tenersi lontana da quella parte del castello perché i genitori non desideravano vederla. E il suo temperamento, così pronto all'amicizia, doveva esserle causa di nuove sofferenze. Un giorno, aveva 6 anni, arrivarono al castello della mietola alcuni visitatori e la nutrice si dimenticò di avvertire Margherita di non uscire dalla sua camera. La piccola, come al solito, andò in cappella a pregare e sul suo cammino incontrò una delle ospiti, una delle signore. Questa donna, mossa, gli fece compassione e tenerezza, cominciò quindi a farle delle domande. Intervenne immediatamente la nutrice e la strappò a questa situazione. Ma quando Parisio e la moglie seppero dell'incidente, furono, possiamo dire, atterriti nel constatare la precarietà del loro ripiego. Rabbrividirono al pensiero che per tutta Massa Trabaria si sarebbe sparsa la notizia che il signore e la signora della mietola avevano una figlia in quelle condizioni. Per loro era una figlia deforme, cioè loro usavano questo aggettivo. Era evidente che se avessero continuato a permettere a Margherita di godere ancora la libertà nel forte, nel castello, prima o poi il loro segreto sarebbe stato scoperto. Bisognava fare qualcosa, ma cosa? Emilia suggerì di cercare qualche contadina che allevasse la bimba più lontano possibile tra le montagne. Parisi invece pensò ad una chiesa. Ma la chiesa a cui si riferiva non era la cappella del castello dove una cella sarebbe stata notata da chiunque, ma una chiesina in mezzo alla foresta, lontana circa 400 metri dal castello della Metola. Si chiamava la chiesa di Santa Maria della Fortezza della Metola. Si adattava benissimo al piano di Parisio, poiché la montagna era così selvaggia in quel punto da scoraggiare qualsiasi ospite del castello che volesse visitarla. All'interno di questa chiesetta, Parisio fece costruire una stanza, sarebbe meglio dire una prigione. Una stanza comunque dal soffitto basso, e il muratore la finì in pochi giorni. Senza tante cerimonie, prese la bimba e la... sembra incredibile, ma è quello, i documenti ci dicono questo, la rinchiuse nella stanza, facendo murare la stanza. C'era soltanto praticamente una finestrella che da questa stanza dava all'interno della chiesa. Crudeltà inaudita, ma ci viene detto che allora facevano di cose anche peggiori. Non so, peggio di questo non so cosa si potrebbe fare, ma comunque. Qual era la sintesi del discorso? Che mai più la piccola avrebbe avuto l'occasione di giocare con i bambini del castello, come poteva per esempio fare prima che fosse rinchiusa all'interno di questa cella. E sarebbe stata separata per sempre dal resto del genere umano, quasi come un pericoloso criminale o come una lebbrosa, perché era intenzione del padre lasciarla lì, murata, fino a quando la morte sarebbe venuta a liberarla. Il triste giorno in cui Margherita fu rinchiusa nella piccola cella, la vita del castello continuò come al solito. Apparentemente nessuno vide nulla e certamente nessuno parlò. Non sarebbe stato prudente, ma nel segreto delle loro case i soldati e le mogli chiacchieravano anche molto e con sdegno di questo fatto. Anche il sacerdote stesso del castello si era opposto fermamente a questa e rischiò la vita veramente per evitare a Margherita questa prigione disumana, e in fondo era una bimba, insomma. Ma il Signore non abbandonò mai questo suo angelo. Le aveva donato, dicevamo prima, un'intelligenza luminosa, come diceva il cappellano che la seguì molto da vicino, come vedremo. La piccola Margherita comprendeva la vita e i suoi problemi in modo veramente straordinario, ci viene detto. Questo in gran parte era frutto delle pazienti istruzioni del sacerdote, ma più largamente della grazia di Dio. Assorbiva con amore completamente le parole di questo padre, soprattutto quando lui le insegnava che il corpo non contava nulla, che sarebbe poi ridotto in cenere. Quello che contava era l'anima. E parlava soprattutto dell'amore di Dio come padre, e del grande affetto, del grande amore che aveva per tutte le sue creature. Già il Signore la chiamava a sé in questo momento, la riempiva veramente, questi discorsi la riempivano di gioia e di amore, e in un certo senso la proteggevano anche da questa gioia, questo amore che sentiva per il Signore, la proteggevano anche da quelle che erano le staffilate crudeli che i genitori comunque non le risparmiavano per il suo aspetto fisico. Questi insegnamenti accendevano in lei un tale fuoco che la spingevano a fare qualunque cosa per rendersi degna di questo amore divino. Aveva scelto, capito, il Signore le aveva dato questa grazia, di scegliere Lui sempre, totalmente, completamente, e sarà sempre Lui, sarà soltanto Gesù, il fine della sua vita, come vedremo durante tutta l'esposizione della vita. E soprattutto l'esempio di nostro Signore che sopportò volontariamente le più grandi sofferenze per salvare l'umanità, le fecero una profonda impressione, vi rifletteva spesso. Capì sempre meglio l'immensità dell'amore di Dio, anche perché, dicevamo, il Signore gli diede la grazia di sentirlo come un fuoco nel cuore. Margherita aveva comunque, non era particolare, aveva un temperamento allegro, luminoso, e per natura, anche perché era una bambina, si ritraeva davanti al dolore e alla sofferenza. Aveva però capito che per crescere in virtù e avvicinarsi sempre di più a Dio, la strada per la quale doveva camminare era proprio quella tracciata da Gesù. E poiché desiderava Dio più di qualsiasi cosa, decise di accogliere l'invito a seguirlo fino al Calvario, come farà. Il comportamento dei genitori fu per lei un colpo che la fece, e ovviamente la fece soffrire fino alla morte. Ma si persuase che Dio lo avesse permesso per il suo bene e sforzò la natura che si ribellava ad accettare il colpo come una grazia speciale del Signore. E dicevamo prima, pur di essere sempre più unita a Lui, unita a Gesù, cercò di non tralasciare nulla di ciò che potesse aiutarla a raggiungere questo fine. Non solo accettava le sofferenze che la vita già le infliggeva, ma ne cercò altre. Così a 7 anni, per esempio, fece voto di osservare il digiuno monastico che durava dalla metà di settembre, festa della Santa Croce, fino a Pasqua. Ma questa penitenza non le bastava ancora. Di nascosto riuscì a procurarsi un cilicio e cominciò a portarlo. Il biografo nota che Margherita temeva che in qualcuna delle sue rare visite la madre si accorgesse dell'ampiezza del suo vestito e sospettasse qualcosa, ma Monna Emilia, ci viene detto, era troppo assorbita dal pensiero della disgrazia di aver messo al mondo una creatura come Margherita per occuparsi seriamente di lei. Così questo segreto rimase nascosto. Intanto il tempo scorreva lentamente e la bimba non se ne accorgeva. Le veniva portato regolarmente ogni giorno da mangiare. C'era soprattutto però quella che la faceva crescere spiritualmente e la aiutava, era la celebrazione dei sacramenti in alcuni giorni della settimana che il cappellano faceva all'interno della chiesetta, oltre agli insegnamenti che gli dava. Fu una figura molto importante questo sacerdote per Margherita, perché veramente fu l'aiuto di Dio in quei momenti così tragici, così sconfortanti. Ma intanto il tempo scorreva lentamente e la bimba non se ne accorgeva, dicevamo. Osservava solo il succedersi delle stagioni. Benvenuta la primavera che alleviava il freddo intenso di cui soffriva crudelmente, ma il piacere della primavera finiva presto e veniva il caldo soffocante dell'estate. Il sollievo dell'autunno le diceva di prepararsi ad affrontare un altro gelido inverno. Aveva già passato la bellezza di 12 anni in quella stanza, in quella prigione, diciamo, quando si presentò il primo dei 3 eventi che l'avrebbero duramente colpita, o colpita ancora una volta in più. Aveva tra i 17 e i 18 anni. Nel 1306 la città di Montefeltro, invase Trabaria. E per sicurezza Parisio fece partire la moglie con Margherita, che lasciò sì la sua cella, ma non tardò ad accorgersi che si trattava dal trasferimento a un'altra prigione. Insomma, si vergognavano in modo incredibile di questa bimba, questo era il discorso. Quando la comitiva raggiunse il Mercatello, Monna Emilia fece accompagnare la figlia giù per le scale da uno dei soldati, nel palazzo che avevano comprato, che avevano loro, e fece preparare frettolosamente un pagliericcio e una vecchia panca in questo sotterraneo. Nient'altro. Le sarebbe stato portato da mangiare 2 volte al giorno e se avesse avuto bisogno di qualche cosa avrebbe dovuto aspettare l'ora del cibo per chiederla. Non doveva chiamare per nessuna ragione e starsene tranquilla. A Mercatello soffrì ancora più intensamente di quanto aveva sofferto fino ad allora. Infatti alla Metola era stata sostenuta, dicevamo, dal conforto e dall'aiuto delle pratiche religiose, dalla partecipare, anche se rinchiusa, alla Santa Messa, alla confessione, la comunione, le visite e gli incoraggiamenti del cappellano. Ora ad un tratto fu privata di tutte queste cose. E alle sofferenze spirituali si aggiungevano le pene che la guerra infliggeva anche ai suoi affetti naturali. Amava profondamente il suo paese natio e i suoi compaesani. Pensate, nella crudeltà del padre, ci viene detto, era riuscita a diminuire il suo affetto per lui. Amava teneramente il padre. Dalla serva seppe che il nemico era già penetrato nel paese. Molti soldati erano stati uccisi e la vita del papà era sempre in pericolo. Proprio durante questo periodo, il biografo osserva che il demonio cercava continuamente di spezzare lo spirito della fanciulla, accumulando su di lei tante tribolazioni per portarla all'esasperazione e alla disperazione. Ma pur essendo stata così duramente provata, la fede e la fiducia che sempre ebbe nel Signore sostennero la nostra Margherita, che uscì vittoriosa anche da questa prova. Anche la guerra finì. Trabari era salvo e presto suo padre sarebbe ritornato a casa. aveva pregato molto per questo. E quanto ottenne con la preghiera? Lo vedremo anche tra poco, più avanti. Seppe che il padre era salvo, che aveva, addirittura aveva sconfitto Montefeltro. La prima cosa che fece, ringraziò il Signore perché era finito uno spargimento di sangue e perché aveva portato a casa il papà salvo. In settembre, quindi, Parisio tornò vittorioso a casa e raggiunse la moglie a Mercatello. Emilia si affrettò a informare il marito degli avvenimenti e riferì anche in tutti i particolari la visita che dei pellegrini avevano fatto a Città di Castello e i miracoli che erano avvenuti sulla tomba di Fra Giacomo. Parisio, che non credeva, la ritenne una sciocchezza. Ma nuovi racconti continuavano ad arrivare a Mercatello, questo con ogni viaggiatore che veniva da Città di Castello. Alcuni di questi erano uomini colti, professori, avvocati e persino medici. Ora Parisio, che era sensibile a questo tipo di persone perché le riteneva affidabili, il popolo no. Non riteneva affidabile il popolo lui, ma queste persone le riteneva affidabili, cominciò a riflettere e piano piano, cominciò a maturare l'idea di portare Margherita e insieme alla moglie e alcuni soldati sulla tomba di Fra Giacomo. Partirono quindi per Città di Castello e il primo pensiero di Parisio, appena arrivato in città, fu di raccogliere tutte le informazioni possibili sul santuario del Francescano. Infatti, il beato Fra Giacomo era un francescano. Cominciò la sua inchiesta dalla chiesa di San Francesco e, alla fine delle sue ricerche, aveva già visitato una notevole parte della città. Si convinse allora che alla tomba di questo beato erano avvenute autentiche guarigioni e per la prima volta ci viene detto la speranza che Margherita potesse guarire trovò posto nel suo cuore. Sappiamo che il mattino dopo il piccolo gruppo andò nel santuario, andò in questa chiesa. I genitori le trovarono un posto vicino alla tomba di Fra Giacomo e le sussurrarono di nuovo l'ordine, è bello questa espressione, le ordinarono di pregare con tutte le sue forze per ottenere il miracolo. Questo è il loro modo di vedere la vita. Per ubbidire all'ordine dei genitori, Margherita si era rivolta subito al Signore, chiedendo che la guarisse dalle sue infermità, ma aveva posto una condizione. Io ti chiedo, Signore, questo, ma l'importante è che questo sia anche la tua volontà. E la volontà del Signore non era quella. Infatti il miracolo non avvenne. Quando i genitori si resero conto, dopo alcuni giorni, che non c'era niente di cambiato, ebbero un'idea, dire demoniaca a dire poco, perché decisero così di abbandonare la Città di Castello sola, senza nessuno, oltretutto cieca, quindi non vedente, con tutti gli handicap che aveva questa loro figliola, e di tornarsene, quindi di abbandonarla, di lasciarla. Infatti non la vedranno poi mai più, e pensavano forse Parisio e la moglie pensavano di sfuggire così anche alla loro coscienza, ma per quanto corressero fino al giorno della morte, entrambi non avrebbero potuto sfuggire all'immagine ossessionante dell'infelice piccola cieca che, sola, in una città sconosciuta, aspettava ancora fiduciosa il ritorno del babbo e della mamma, che amava comunque più della vita. Possiamo immaginare che gli amici con quale stato d'animo Margherita visse quei momenti, quando si rese poi conto che effettivamente era stata abbandonata. Ebbero pietà di lei alcuni mendicanti. E così i suoi nuovi compagni, i ripudiati allora dalla società, le insegnarono le strade della città, guidandola più e più volte finché non le ebbe impresse abbastanza bene nella memoria da poter andare da sola. Furono proprio questi derelitti a mostrarle dove poteva trovare le fontane per lavarsi e per bere, gli anfratti più riparati dove poter dormire la notte senza essere arrestata dalle pattuglie. Margherita quindi cominciò a vivere, tra virgolette, mendicando nella città di Castello, e cominciarono a conoscerla anche le altre persone. Si resero conto che era un po' sui generis come mendicante, al di là dell'aspetto fisico, ma anche per questa sua delicatezza, questa sua educazione, per questa sua signorilità. E cominciarono a volerle bene, molte persone. I ricchi si tenevano ancora lontani da quella che chiamavano la mendicante, ma i poveri intendo i contadini, le persone che insomma andavano a zappare la terra per vivere, avevano scoperto Margherita, decisero di non lasciarla più vivere come una vagabonda. Decisero quindi di invitarla, pensate, a turno nelle loro case. Non essendo la borsa dei poveri così larga, possiamo dire come il loro cuore, nessuna famiglia poteva permettersi di adottarla per tutta la vita, non avevano i mezzi. Allora ognuno fece con semplicità quello che poteva e lo ospitò per il tempo che i suoi mezzi lo permettevano. Quando l'onere diventava troppo gravoso per le magre entrate del bilancio domestico, un'altra famiglia veniva in soccorso e invitava la fanciulla a condividere l'umile focolare. Così per alcuni anni passò di casa in casa da una famiglia all'altra. Fu una situazione strana, cioè una mendicante senza tetto praticamente adottata dai poveri della città, dal popolo. Margherita Cagnamici aveva sì perduto la sua casa, ma in cambio quante altre ne aveva trovate. Le abitazioni dei poveri non erano, è vero, né così spaziose né così ben arredate come il castello del padre, ma almeno non erano prigioni. Nelle case dei poveri la giovane gustò per la prima volta quello che il suo cuore aveva tanto desiderato e che i suoi genitori le avevano sempre negato: l'accoglienza, l'affetto, un amore generoso. E lei ricambiava questo suo, non stava con le mani in mano, rassettava la casa, cercava di rendersi utile, di pulire, di aiutare i poveri, i contadini quando erano fuori, accudendo i bambini, molti bambini che c'erano. Ricambiava con abbondanza e con amore e di più. Dobbiamo sapere che in alcune famiglie, per esempio, guardate anche qui le grazie che otteneva, non si faceva che litigare purtroppo. In altre la diffidenza, l'incomprensione, gli odi rendevano la vita veramente insopportabile. Presso alcuni Margherita trovò anche indifferenza religiosa, presso altri addirittura ostilità contro la Chiesa, ma per quanto le condizioni fossero spiacevoli, Margherita restava sempre serena. La sua gentilezza, la sua pazienza, la sua serenità sembravano inesauribili. Anzi, ci si rese conto che proprio dovunque andava, in qualunque famiglia era ospite, avvenivano dei cambiamenti. Dei vicini che prima erano nemici, ora erano in ottimi rapporti. Mariti che si rapacificavano con le mogli e viceversa. Famiglie lontane da Dio che si ravvedevano e tornavano al Signore. I cambiamenti non erano solo di carattere morale. Famiglie povere trovarono che contro ogni aspettativa i loro mezzi materiali miglioravano invece che peggiorare. I raccolti nei campi, era un miracolo, era una grazia che il Signore donava per le preghiere che Margherita faceva, per l'intercessione che aveva, per il dono dell'intercessione che aveva. Dinanzi a questi fatti non si poté fare a meno di pensare alle preghiere appunto della nostra Beata, che chiedeva al Signore di compensare così i suoi benefattori. Queste altre notizie, circolando liberamente per la città, giunsero anche alle orecchie delle suore di clausura del monastero di Santa Margherita, a Città di Castello, destando tra loro interesse. Il biografo si astiene dal rivelarci il nome dell'ordine a cui le suore appartenevano. Sembra che Margherita fosse oggetto di animate discussioni in quel monastero. Per di più, alcuni benefattori del monastero, benefattori influenti, avrebbero fatto notare alle monache lo stato misero della ragazza, osservando anche che una ragazza così, così ben educata, di così buon carattere, non doveva essere sbattuta di casa in casa, ma sarebbe stato più conveniente accoglierla nel monastero. Ebbene, queste esortazioni divennero tanto insistenti che la priora riunì il consiglio per discutere la questione. Non era facile prendere una decisione. Le leggi della Chiesa, come pure quelle dell'ordine, esigevano condotta irreprensibile, nascita legittima, esenzione da difetti fisici. La prima condizione, cari amici, non presentava difficoltà, ma la seconda e la terza sì. Si temeva infatti che Margherita sarebbe stata per le sue condizioni fisiche un grave peso per la comunità. Ma la questione della nascita rappresentava un ostacolo ancora più grave. Era figlia legittima o no? Nessuno sapeva niente della sua famiglia. Si sapeva bene, anzi, che eludeva ogni domanda che riguardasse i genitori e il luogo della sua nascita e ogni minimo particolare. Era aliena dal parlare di sé e della sua vita. E la sua preoccupazione di nascondere i genitori destava sospetti sulla legittimità della sua nascita. Invece lei lo faceva per carità verso i suoi genitori. Dopo una prolungata discussione, il consiglio del monastero decise di sottoporre la questione al vescovo della diocesi, chiedendogli che se ne assumesse lui la responsabilità. Il vescovo raccolse tutte le informazioni che poté e le trasmise al rettore della cattedrale di Mercatello, dove dopo molto tempo, dopo molti mesi dalla nascita, Margherita era stata battezzata. Ricevuti i due certificati, il vescovo rimase sbalordito quando si rese conto che il papà di quella mendicante era il famoso generale Parisio che aveva sconfitto addirittura Montefeltro, la città di Montefeltro. Comunque non perse tempo. Avvertì le monache che Margherita era legittima e battezzata, ma non comunicò a nessuno il casato della ragazza. Così, rassicurate dal vescovo, le monache invitarono Margherita a far parte della loro comunità. Inutile dire, cari amici, con che gioia Margherita accettò questo invito. Non sarebbe più stato un peso per i poveri che l'avevano aiutata con tanta generosità. Non avrebbe più occupato il posto nelle loro case già così poco, così insufficiente. Il giorno in cui i suoi amici la condussero al monastero e le suore l'accolsero affettuosamente, fu per lei un giorno di gioia indicibile. Le monache poi erano commosse dalla sua modestia, dalla sua letizia, dalla sua profonda gratitudine e del suo stupore di fronte alle premure che tutte le prodigavano. E furono anche sorprese della rapidità con cui lei, non vedente, percorresse le sale e i corridoi del convento. Rimasero stupite nel vedere che non solo si disimpegnava da sola, ma era anche capace di pulire e assestare le stanze del monastero, di aiutare a preparare i pasti, di apparecchiare il refettorio, di lavare i piatti e fare molti altri servizi. Margherita era ora tanto felice da sentirsi quasi a disagio. Era entrata in convento per dedicarsi alla salvezza delle anime con la preghiera e il sacrificio. Questa era la sua strada. E non per sentirsi il cuore pieno di una felicità così grande. Cominciò allora, per assurdo, quasi a temere di non essere più degna di soffrire, forse a causa dei suoi peccati, ma su questo punto sarebbe stata illuminata ben presto. Intanto, pur così giovane, aveva 19 anni, e inesperta, sapeva che una fanciulla non entra in convento perché è già santa, ma perché desidera diventarlo, ed era troppo intelligente per condividere l'illusione che basti prendere il velo per essere liberate da tutti i difetti. Si rendeva invece ben conto che normalmente la perfezione spirituale si conquista dopo molti anni di disciplina. Ma ci fu un momento nella sua vita religiosa in cui si trovò davanti a un problema che la lasciò perplessa. Entrando in monastero, Margherita si era ovviamente impegnata a vivere secondo la regola dell'ordine, ma lì non veniva osservata. A una novizia che avesse notato la discrepanza tra la regola e la vita pratica delle suore, veniva data per tranquillizzarla questa spiegazione. La regola è stata scritta molti secoli fa, non si può seguirla in tutti i suoi particolari, i tempi sono cambiati. Ma la nostra beata non riusciva a conciliare la spiegazione con i fatti. Per esempio, la regola insisteva sull'importanza del silenzio in certe ore del giorno e della notte, e questa era ignorata. La maestra delle novizie spiegava a Margherita che era più importante mostrarsi socievoli che osservare il silenzio. La carità, le diceva, lo sai, è la più grande delle virtù, ma lei non riusciva a capire perché non si potesse praticare la carità e nello stesso tempo osservare la regola. Un'altra cosa, poi. La regola non permetteva che si andasse di frequente in parlatorio per intrattenere i visitatori. Eppure tutto il giorno c'erano parenti e amici a far visita alle suore e molte ore si perdevano in conversazioni. Anche questo si giustificava col dire che conversando con i visitatori, le suore avevano l'occasione di far loro del bene, dando buoni consigli. Margherita pensava, ma aveva troppo tatto per dirlo, che la direzione delle anime doveva essere lasciata ai sacerdoti e che le monache avrebbero fatto meglio ad aiutare le anime con la preghiera e i sacrifici. Insomma, in breve si accorse che ogni mancanza alla regola aveva la sua giustificazione. Pensava molto a questo problema e si rendeva conto che non erano state le sue compagne di convento a introdurre questi cambiamenti, dovevano esserci da lungo tempo, ma comunque non era giustificato quell'atteggiamento, non ci si trovava. Dopo aver meditato a lungo e aver cercato aiuto nella preghiera e nel consiglio del confessore, prese la sua decisione. Aveva promesso a Dio che sarebbe vissuta secondo la regola, col suo aiuto avrebbe fatto tutto il possibile per riuscirci. Era sorpresa dalla rilassatezza e del poco spirito religioso del monastero, e questo le spiaceva molto. Le monache invece a loro volta si divertivano nel vedere gli sforzi della nuova novizia per osservare la regola proprio alla lettera, quindi cercava di metterci tutta se stessa. La sua condotta però cessò un giorno di essere oggetto di sorrisi ironici e si cominciò a ritenerla una persona singolare, eccentrica e come tale un fattore di disagio per il convento. La sua osservanza della regola era un tacito che gli amici ma eloquente rimprovero alle altre suore, perché provava che il primitivo fervore era ancora possibile. L'eroico e riuscito tentativo che lei faceva di vivere secondo questa regola, che aveva giurato di osservare, metteva in agitazione la coscienza delle suore, e Margherita diventava rapidamente il membro purtroppo meno gradito della comunità. Lei, dal canto suo, era profondamente grata a tutte le suore che l'avevano accettata. Le amava veramente di un amore profondo, sincero. Tanto più era addolorata proprio dalla loro rilassatezza, così in contrasto con quella che era la loro vocazione. E cominciò quindi con tatto, con gentilezza, a cercare di influenzare le suore che si mostravano più affettuose, più vicine a lei. E perché capiva benissimo quanto l'impresa fosse delicata, si affidò soprattutto alla forza del buon esempio, pensando che se le parole falliscono, il buon esempio trascina. Ma purtroppo tutto fu inutile. In parole povere, cari amici, questo suo atteggiamento fu ripreso dalla superiora e tutto il convento seppe che aveva ricevuto un ultimatum proprio dalla superiora. Quindi quando videro che lei continuava con calma e serenità a osservare la regola come se niente fosse avvenuto, le suore furono esasperate. Il suo contegno fu ritenuto una disubbidienza formale e fu espulsa dal convento. Quando la porta si chiuse dietro le sue spalle, era come inebetita, non riusciva a crederci. Per la seconda volta il suo piccolo mondo si sgretolava, per la seconda volta era respinta da coloro che amava. Lo scoraggiamento e la disperazione in quel momento veramente si agitavano in lei. Lottava con tutte le sue forze per pregare, ma le sembrava che le sue preghiere fossero vuote, senza significato. Peggio ancora, Dio sembrava in quel momento infinitamente lontano. Ma proprio mentre sembrava abbandonata da Dio e anche dagli uomini, al momento cruciale del conflitto, proprio quando si sentiva vicina alla disfatta, una nuova grazia venne a riempirle il cuore. Si ricordò che da quando si era offerta a Dio, Dio gli aveva chiesto che facesse, lei aveva chiesto a Dio di fare di lei quello che voleva. Conoscendo fin dall'infanzia l'infinito valore della sofferenza, si era incamminata volontariamente per la via del Calvario. Ed ora che Dio la prendeva in parola, sarebbe forse tornata indietro, si domandava. Nelle sue meditazioni aveva sempre riflettuto sull'agonia fisica e morale di Gesù, specialmente quando moriva sulla croce, abbandonato da tutti. Ed ebbe allora la chiara percezione interiore che Gesù moribondo in croce le dicesse: Margherita, anche tu mi abbandoni. In quel momento la lotta cessò. Voleva ancora solo Dio, a qualunque costo e a qualunque prezzo. Intanto la sua uscita dal monastero si seppe subito nella città. Molti, è triste dirlo, ma gioivano segretamente di queste chiacchiere, perché coi presunti difetti di Margherita pensavano di giustificare le proprie cadute. E i ragazzi ascoltavano le conversazioni dei grandi e crudelmente cominciarono anche a perseguitarla. Insomma, non poteva apparire sulla strada senza che le gridassero i ragazzini: Nana, zoppa, gobba, ecco la santa. Neppure in chiesa poteva salvarsi dalle male lingue. Le donne, passandole vicino, facevano spesso osservazioni sprezzanti, a voce abbastanza alta perché lei udisse. E queste erano le persone che prima la aiutavano. Solo che era stato detto che era stata cacciata dal convento perché non osservava la regola, non faceva il suo dovere. Ma nel suo dolore, ancora una volta, non cessava di confermare silenziosamente la sua fede e la sua speranza nella sapienza e nell'amore di Dio. Era una parte della via del Calvario. Si era messa nelle mani di Dio e voleva continuare così. Passarono così alcuni mesi, e la gente della città, che poi i nodi vengono al pettine, la gente della città faceva sempre più il confronto tra il comportamento di Margherita e quello delle monache. Loro, che per la loro vocazione avrebbero dovuto mantenere un silenzio, possiamo dire un silenzio pieno di carità, anche se le accuse fossero state vere, facevano il contrario, mentre Margherita, che avrebbe avuto tutto il diritto di difendersi, non solo si era rifiutata di discolparsi, ma aveva addirittura cercato di giustificare le suore. Ma la gente voleva capire. Si mise allora ad indagare su come veramente fossero andate le cose. Non fu difficile capire come quello che era veramente successo. Così a poco il convento perse la stima, mentre Margherita fu riabbracciata e non pochi gli chiesero perdono per quell'atteggiamento di disprezzo, di persecuzione che avevano avuto nei mesi precedenti. La sua confidenza nell'aiuto di Dio fu abbondantemente ricompensata e come premio alla sua fede e al suo coraggio il Signore le preparava un dono che l'avrebbe finalmente fatta vivere in pace fino alla morte. Era successo che proprio nel periodo in cui quasi tutti la coprivano di disprezzo e la mettevano in ridicolo, Margherita nella Chiesa della Carità incontrò le mantellate. La Chiesa della Carità era quella preferita dalla nostra Beata, e proprio il nome di Chiesa della Carità le derivava dal fatto che una società di beneficenza, conosciuta sotto il nome di Confraternita della Carità, l'aveva scelta come propria chiesa. A quel tempo era affidata ai frati domenicani ed era perciò diventata anche il quartier generale delle mantellate. Margherita andava tutte le mattine per partecipare alla Santa Messa, quindi era, diciamo, anche naturale che facesse amicizia con alcune di queste donne, di queste mantellate, che erano laiche, erano donne laiche appartenenti all'Ordine della Penitenza di San Domenico, organizzazione che si trasformò poi in seguito in quello che è l'attuale Terzo Ordine Domenicano, no? Le donne che allora desideravano vivere la vita religiosa e che per qualche ragione non potevano entrare in convento, potevano affiliarsi all'Ordine Domenicano aggregandosi proprio a questo Ordine della Penitenza. Continuavano a vivere in casa loro, ma si impegnavano a un sistema di vita più austero, sia in casa sia fuori. Portavano l'abito religioso domenicano, quindi una tunica di lana bianca legata alla vita da una cintura di pelle, la testa coperta da un bianco velo leggero in forma di sciarpa, e portavano una lunga mantella nera sulle spalle. Proprio da qui ebbe origine il termine le mantellate. Comunque, conoscendo il desiderio di Margherita di entrare in un ordine religioso, alcune di loro pensarono che avrebbe potuta essere accolta, come in effetti poi avvenne. E questa fu una grazia enorme per lei. Dopo aver ricevuto l'abito domenicano, Margherita si accorse di possedere finalmente quello che le era mancato tutta la vita. Per la prima volta seppe quel che significa far parte di una famiglia, di una grande famiglia religiosa, in cui i frati, le suore erano veramente per lei fratelli e sorelle, legati da un vincolo anche più forte di quello del sangue, dal vincolo spirituale. Ma c'era qualcosa di più bello di questo senso di appartenenza che faceva esultare di gioia il cuore di Margherita. Era il grande ideale dell'ordine in cui era entrata: servire Dio senza riserve e senza condizioni. E proprio qui l'importanza che per esempio i domenicani davano alla preghiera aveva per Margherita una speciale attrattiva, poiché fin dall'infanzia aveva avuto la più grande confidenza nel suo potere di intercessione presso Dio. e oltre alle preghiere prescritte dalla regola, recitava ogni giorno buona parte dei salmi. I salmi sono 150, se non tutti, buona parte. Non solo, l'ufficio della Beata Vergine e quello della Santa Croce. Doveva dirli necessariamente a memoria, e il biografo, senza dare alcun particolare, afferma che li imparò in modo miracoloso. Non c'era ancora la scrittura Braille, quindi era non vedente, non c'era altra possibilità che una grande grazia, in questo senso. E non sarà l'unica, come vedremo. Non sembrava poi mai stanca di considerare i vari episodi della vita di Gesù, specialmente l'incarnazione e la nascita. E se l'ideale di preghiera domenicana trovò una perfetta risonanza nel suo cuore, l'ideale di penitenza, illustrato a lei in una delle prime conferenze che udì nella Chiesa della Carità, non fu accolto con minore entusiasmo. Anzi, le avevano spiegato che San Domenico insisteva sulla necessità della mortificazione se si vogliono vincere gli appetiti disordinati. E il santo adottò per sé e per il suo ordine l'uso giornaliero della disciplina, l'interruzione del sonno a mezzanotte per recitare mattutino, e lodi anche, il digiuno da settembre a Pasqua e infine il canto dell'ufficio divino in coro. Ma c'era un'altra penitenza che San Domenico non impose all'ordine e che riservò a se stesso, la privazione del sonno. Ogni notte, quando i suoi frati dormivano, San Domenico si recava in chiesa e lì, davanti al Santissimo Sacramento, passava molte ore della notte in preghiera finché il corpo esausto lo costringeva a prendere un po' di riposo. Allora si sdraiava sul pavimento di pietra della chiesa per qualche ora di sonno. Questi discorsi facevano un'impressione così viva in Margherita che il loro effetto, e il loro metterli in pratica, durò fino alla morte. Mentre le altre mantellate dopo la funzione tornavano a casa, lei rimaneva nella chiesa silenziosa, riflettendo su quello che aveva udito. Cominciò quindi a mettere in pratica, e cominciò dalle devozioni la notte, notturne. Tutte le notti, dopo la mezzanotte, i frati si alzavano per recitare mattutino e lodi. Le mantellate erano obbligate a questa pratica solo la domenica e circa altre 70 volte nell'anno, nei giorni festivi. Dopo aver detto le preghiere prescritte, tornavano a dormire, ma Margherita vide che lei non faceva abbastanza. E giusto pensò che le altre mantellate, donne anziane, madri di famiglia, approfittino delle dispense concesse dalla regola, ma sarebbe pigrizia per me, giovane, diceva, passare la notte dormendo, mentre nei conventi e nei monasteri di tutto il mondo i miei fratelli e le mie sorelle cantano in coro le lodi al Signore. Se non posso vivere in convento, posso almeno cercare di conformarmi alla loro vita. Così ogni notte, appena sentiva la campana del convento domenicano annunciare il mattutino, si alzava per unirsi spiritualmente ai frati nelle loro preghiere. Ma il pensiero delle prolungate veglie di San Domenico la spinse a fare di più. Rinunciò a riprendere sonno dopo le preghiere di mezzanotte, obbligandosi a passare il resto della notte in meditazione. Non contenta di questa lunga e penosa veglia, appena suonava la campana di prima, al mattino, Margherita, preso il bastone, si avviava a tentoni per le strade ancora buie e deserte verso la Chiesa della Carità, dove ogni giorno si confessava e partecipava alla Santa Messa. E osservò questo austero programma con grande fedeltà fino all'ultima malattia. Non solo, dopo la sua morte, pensate, quando le mantellate prepararono il suo corpo per la sepoltura, furono impressionate nel vedere le sue spalle coperte di cicatrici, prova chiara che la consorella non si era risparmiata neanche il flagello. In una parola, Margherita non solo osservava con spirito di fede ogni particolare della regola, ma spesso andava oltre. Lottava per la perfezione e la sua natura generosa non voleva lesinare quando si trattava del Signore. Ma non tutti i suoi amici approvavano la vita eroica che aveva scelto. Alcuni pensavano che la natura e i suoi genitori le avevano inflitto già abbastanza sofferenze, senza che ci fosse bisogno di aggiungerne altre. Altri, sempre suoi amici, ben intenzionati, fecero dei tentativi per mitigarne le penitenze, ma non ottennero nessun risultato. Margherita continuò le sue austerità e la sua inesauribile missione di misericordia. E fu una missione piena di amore verso gli altri. Infatti nessun malato era troppo lontano per lei per recarsi a trovarlo, sia pure zoppicando. Nessuna ora del giorno o della notte troppo scomoda per accorrere al letto degli agonizzanti. Se i malati erano poveri, non trascurava nulla per procurare le medicine e i cibi di cui avevano bisogno. Ai morenti cercava di infondere rassegnazione e coraggio, supplicava con angoscia quelli che non volevano pentirsi perché si rappacificassero con Dio, e quando le sue esortazioni non trovavano risposta, ricorreva alla preghiera. E fu raro il caso che qualche cuore, anche il più indurito, riuscisse a resisterle. Ma la nostra beata, ormai mantellata, non limitava il suo apostolato ai malati e ai moribondi. Se qualcuno cominciava con lei una conversazione, Margherita cercava di ricompensare la sua cortesia elevando a Dio il cuore e la mente del suo ascoltatore, adempiendo alla lettera l'esortazione di San Domenico, che diceva «parlare solo con Dio o di Dio». E parlava molto dell'amore di Dio, dell'incarnazione di Gesù e poi di Maria e di San Giuseppe. In particolare il biografo nota con una punta di umorismo che Margherita continuava a parlare di San Giuseppe finché c'era qualcuno che stesse ad ascoltarla. Ma c'era una ragione, cari amici. La devozione a San Giuseppe a quel tempo non era diffusa nella Chiesa occidentale. Nonostante la tradizione popolare affermasse il contrario, fu solo verso la fine del XIV secolo che cominciò questo culto. Margherita fu perciò una pioniera di questa devozione. Dalla fanciullezza fino alla morte ella ebbe un'ardente ammirazione per questo grandissimo santo, santo amante del nascondimento, la cui fede eroica e la profonda umiltà lo prepararono a quella grande vocazione, a quella grande, quel grande compito di aver cura di Gesù e di Maria Santissima. E qui gli abitanti della di città di Castello la vedevano spesso andare a visitare i malati, i morenti. In principio ne se ne erano meravigliati, una persona così che avrebbe bisogno a lei di essere semmai aiutata e invece corre verso gli altri in modo totale, unico, senza nessuna riserva. Insomma, a poco, vedendo l'eroicità proprio di questo amore, il loro atteggiamento si trasformò in venerazione verso questa fanciulla. Non stupisce che il suo biografo parli del suo carattere descrivendolo semplicemente meraviglioso e che la gente della città fosse della stessa opinione. Né questa ammirazione si limitava alla città. I racconti della forza, delle virtù di Margherita si sparsero per tutta la contrada e molte persone, proprio scoraggiati dalle prove e dalle pene della vita, ascoltandola sentivano rinascere uno spirito nuovo, sentivano una forza nuova nel cuore e riprendevano così, ringraziando Margherita di questa parola, di questa forza, di questa grazia che ricevevano per la sua preghiera, riprendevano a camminare nella vita con più speranza. Quando Margherita divenne mantellata, dobbiamo dire che cessarono per lei anche le difficoltà, anche economiche della vita. Infatti la famiglia degli Offrenducci Macreti erano due famiglie che vivevano, due famiglie molto ricche di Città di Castello, vivevano entrambi in un grande palazzo. La invitarono ad andare a vivere con loro. Il biografo ci informa che le cose non andarono del tutto bene in parte e Margherita venne a trovarsi di nuovo in difficoltà. La causa principale fu la giovane Francesca Ocecca. Ocecca, come la chiamavano affettuosamente. Lei e Margherita erano diventate amiche intime e Margherita si era accorta che Francesca non sapeva quasi niente delle verità della fede, per cui possiamo immaginarlo, con amore, con zelo, si diede a colmare questa lacuna. Tutti i giorni spiegava alla sua amica le verità della fede, le insegnò l'ufficio della Beata Vergine e anche alcuni salmi. La ragazza, che aveva 16 anni, non si era più confessata da quando era bambina. Margherita non solo la indusse a confessarsi, ma le insegnò anche a fare la confessione generale. Il padre, Messer Macreti e Monna Isachina, per quanto volessero un gran bene a Margherita, cominciarono a sentire un certo disagio per l'influenza che esercitava sulla loro figlia. Non avevano niente in contrario riguardo all'istruzione religiosa di Cecca, anzi, pensavano che la reputazione di persona pia non poteva che aiutare una fanciulla ad assicurarsi un buon partito. Ma Creti però aveva osservato che, trascinata dall'esempio di Margherita, cieca appariva sempre più attratta dalla vita religiosa. Ora né lui né sua moglie avevano alcuna intenzione di permetterle di farsi suora. Anzi, avevano riposto i loro desideri in un buon matrimonio per la figlia. Avevano già in vista il futuro fidanzato, era un bel giovane di ottima e agiata famiglia, ma l'indifferenza di Francesca di fronte al matrimonio era aumentata da quando era diventata amica di Margherita. I genitori quindi sospettavano che quell'amicizia non giovasse ai loro piani, e in effetti era così. Nelle sue conversazioni con Francesca, Margherita aveva anche parlato con ardore della vacuità del mondo e della bellezza del servizio di Dio, a tal punto che Francesca sentiva una gran voglia di diventare anche lei mantellata. Si rendeva conto però che sarebbe stato inutile chiedere il permesso ai genitori, non gliel'avrebbero mai dato. Margherita pensò allora di chiederlo lei stessa, e sapendo che avrebbe incontrato una forte opposizione, aspettò prudentemente il momento propizio. E il momento propizio avvenne. Un giorno alcuni amici vennero a far visita ai Macreti. Margherita era presente. Dopo le solite chiacchiere, la conversazione si volse alla nuova mantellata, Margherita, e sull'associazione di cui faceva parte. Messer Macreti disse: «Devi essere orgoglioso delle tue sorelle mantellate, fanno cose meravigliose. Con qualunque tempo vanno a visitare i malati, i morenti, a compiere le loro opere di misericordia». Prendendo la palla al balzo, Margherita chiese: «Allora io chiedo a tutte e due, cioè a Messer Macreti e alla moglie, di permettere alla vostra figliola di unirsi a noi, di diventare mantellata». Non l'avesse mai detto. Isacchina fu la prima a dire: «Taci Margherita, nostra figlia non porterà mai l'abito religioso». Ma la nostra beata non si lasciò confondere. Continuò con calma e disse: «In verità, Isacchina, non passerà molto tempo e tutte e due, voi e la vostra figliola, sarete mantellate». Benché avesse parlato con molta serietà, gli ospiti, dopo questa affermazione, scoppiarono a ridere, e anche Macreti e la moglie non poterono fare a meno di unirsi a loro. Perché? Perché gli amici sapevano che Isacchina era una donna mondana e che di rado andava in chiesa. Margherita invece fu l'unica dei presenti a restare seria e disse: «Non scherzo, tutte e due, Isacchina e Cecca, indosseranno presto l'abito domenicano e lo porteranno per tutta la vita». Perché diciamo questo, cari amici? Perché pochi mesi più tardi Messer Macreti si ammalò e morì in pochi giorni. Madonna Isacchina, abbattuta da una morte così inattesa, abbandonò i divertimenti mondani e cercò conforto in Dio, tanto che lei e la figlia chiesero e ottennero di essere ammessa nell'ordine della penitenza di San Domenico. Ma c'è anche un altro episodio, veramente un altro, ce ne sarebbero molti, però ne raccontiamo alcuni. C'è un altro episodio del tempo in cui Margherita viveva in casa degli Offrenducci di Macreti. Il figlio di Offrenduccio, questa è l'altra famiglia che viveva nello stesso palazzo, il figlio di Offrenduccio era stato incolpato di un grave delitto e arrestato. Il biografo non dice con precisione di che cosa si tratti, dà però qualche indizio sul carattere dell'imputazione. Al principio del XIV secolo, nell'Italia centrale si erano formati due partiti politici, i bianchi e i neri, che si odiavano con ferocia. Quando uno era al potere, l'altro cercava di rovesciarlo. In quel tempo il governo di Città di Castello era in mano ai neri. Il figlio di Offrenduccio, che era un nobile, aveva avuto molte relazioni anche epistolari con i capi dei bianchi, per cui fu denunciato alle autorità come colpevole di cospirare per rovesciare il governo, di cui il suo arresto. Non c'era da scherzare allora. I genitori erano terrorizzati, e con ragione, per il pericolo in cui il figlio si trovava. Se fosse stato trovato colpevole, la più grave condanna sarebbe stata la tortura, la più lieve una grossa multa, e se per una ragione qualunque la multa non fosse stata pagata perché magari era esorbitante, il figlio sarebbe stato frustato per le vie della città, segnato con un ferro rovente o mutilato di una mano. In più, non soltanto lui, ma tutta la famiglia sarebbe stata bandita dalla città, da quello stato. Offrenduccio e la moglie Beatrice avevano ben ragione di allarmarsi, essendo opinione generale che loro figlio era già stato condannato. La madre, piena di ansia e di terrore, confidò i suoi timori a Margherita, che fu profondamente commossa per la disgrazia della sua amica. E qui dobbiamo dire, cari amici, che uno degli strani paradossi che troviamo proprio nella vita di Margherita è che, mentre soffriva ella stessa tanto duramente, era sensibilissima alle infelicità degli altri e il suo cuore non sapeva resistere a chi le domandava aiuto. Di fronte alle difficoltà istintivamente si rivolgeva a Dio per consiglio e per aiuto. Questa volta, dopo aver pregato, cercò di confortare Beatrice assicurandole che nessun male sarebbe accaduto al figlio, e davanti allo scetticismo della povera mamma, con tutta fermezza esclamò: «Credimi, Beatrice, non dovrete pagare né la multa, né soffrirete alcun altro male a causa di questo incidente, te lo assicuro». La profezia si avverò. Il biografo afferma che, con meraviglia di tutti, il giovane fu liberato, non ci fu multa né esilio. Ecco, non sappiamo, cari amici, quanto tempo Margherita abbia vissuto con questa famiglia Offrenducci Macreti, né perché abbia lasciato la loro casa. Probabilmente proprio la morte improvvisa di Messer Macreti aveva disperso la famiglia. Comunque, qualunque sia stata la ragione, la nostra mantellata fu accolta da un'altra ricchissima famiglia, la famiglia Venturino. Questa casa era destinata ad essere l'ultima sua dimora in questa vita. Anche in casa Venturino la nostra beata continuò il suo apostolato verso i più poveri e diseredati. A questo proposito, un'altra grande opera di carità che le mantellate compivano erano le visite alle carceri. Nonostante le rivoltanti condizioni in cui erano i prigionieri, Margherita con Monna Gregoria, la moglie di Messer Venturino, e altre compagne, cominciarono a visitare i detenuti e a portare loro cibi, vesti, coperti. Procuravano assistenza medica ai malati, cercavano di disporli, specialmente se moribondi, a riconciliarsi con Dio. E ogni giorno si potevano vedere queste eroine bianco vestite entrare nelle prigioni, le braccia cariche di fagotti quante più ne potevano portare. Ma tra tutti i loro doni, nessuno era di così gran valore quanto quello di dare ai prigionieri la coscienza della loro dignità di essere umani. E il lavoro spirituale delle mantellate aveva conquistato anche il cuore dei prigionieri più disperati e indotto molti di essi ad accettare con rassegnazione queste sofferenze. Alcuni però avevano sofferto ingiustizie così gravi da perdere, se non la fede in Dio, ogni fiducia nel suo amore e nella sua misericordia. Uno di questi, cari amici, era Alonso di San Mario. Quest'uomo era stato arrestato quando il fratello, sospettato di tradimento, era riuscito a fuggire mentre stava per essere catturato. Alonso proclamò invano la sua innocenza, invano dichiarò di non saper nulla dell'attività del fratello. Comunque, secondo l'uso del tempo, fu sottoposto alla tortura perché rivelasse il nascondiglio di questo suo fratello, che non sapeva. Storpiato per sempre dalle sevizie della tortura, fu gettato in una segreta. La sua lunga detenzione aveva ridotto la moglie e il figlioletto Antonio alla più squallida miseria, ed è facile immaginare la sua disperazione quando seppe tutto questo, ma soprattutto quando, alcuni mesi più tardi, gli giunse la notizia che il bambino, Antonio, era morto di stenti. Sembrava impazzito. Le sue imprecazioni contro la giustizia e la misericordia di Dio facevano gelare il sangue anche ai malfattori più induriti. Più volte nelle sue crisi di disperazione aveva tentato di uccidersi. Un giorno in cui una mantellata cercava di confortarlo, parlandogli dell'amore di Dio per gli uomini, il suo linguaggio fu talmente orribile che la donna fuggì inorridita. E qui Margherita e Monna Gregoria erano state avvertite dalle altre mantellate che era prudente non nominare Dio davanti a questa persona, questo povero infelice. E nella loro prima visita evitarono con cura qualsiasi parola. Lui era steso per terra, ci viene descritto, sofferente per le piaghe. Inginocchiate accanto a lui per curarlo, Margherita e Gregoria erano più afflitte per la sua miseria, per la sua sofferenza spirituale, mentale, che per le sue sofferenze fisiche. Nella visita seguente capirono che Alonso tratteneva a stento le solite imprecazioni. Mentre Gregoria, inginocchiata vicino a lui, continuava a lavargli le piaghe con acqua calda, Margherita si alzò in piedi e, giunte le mani, piegò la testa in preghiera. Qualche cosa nel suo gesto richiamò ad Alonso il ricordo del figlioletto morto. Forse gli parve di rivedere il piccolo Antonio nella stessa posizione, recitare le preghiere della sera. Comunque fu preso da un così profondo dolore che si voltò verso il muro perché i compagni non vedessero. Qualche momento dopo, un succedersi di profondi sospiri e grida di stupore lo fece voltare e guardarsi intorno. C'era sconcerto, spavento in quelle esclamazioni: «Dio mio, Gesù, pietà!» Man mano che il suo sguardo percorreva la stanza, vedeva paura sui visi degli altri prigionieri che guardavano verso di lui. Meravigliato del loro spavento, voltò un po' più la testa e anche gli restò senza respiro. Un momento prima aveva visto Margherita in piedi accanto a lui, e ora il suo corpo era circa mezzo metro sollevato da terra e restava immobile, sospeso senza alcun sostegno. Le sue mani erano ancora congiunte in atteggiamento di preghiera, ma la testa era gettata indietro, come se guardasse attraverso il soffitto della prigione. Dopo qualche tempo, ai prigionieri spaventati, che sembrò fossero passate ore e ore, il corpo di Margherita cominciò a discendere lentamente e solo allora videro il suo volto. Sappiamo, cari amici, che Margherita non era bella di aspetto fisico, ma ora il suo viso era trasformato da una bellezza che non era di questa terra. Alonso la fissava quasi privo di sensi, e il muro di amarezza, di odio verso Dio e verso gli uomini che aveva costruito intorno a sé durante i 12 anni di prigione, crollò improvvisamente davanti al miracolo, in quel momento, che in quel momento era testimone. Allora, mentre Margherita gli si inginocchiava di nuovo accanto, disse con voce rotta dal pianto: «Piccola Margherita, prega per me». Questa preghiera estatica che ci fa tanto ricordare San Giuseppe da Copertino, questa preghiera estatica seguita dalla levitazione non era comunque un fenomeno eccezionale nella nostra beata. Fin dalla fanciullezza si era dedicata alla preghiera e ora era trasportata ogni giorno proprio alle altezze della contemplazione. Si era osservato che le profonde estasi la coglievano soprattutto in presenza di grandi miserie e sofferenze, perché allora il suo pensiero correva subito alle sofferenze patite sulla terra da Gesù. Questo, cari amici, avveniva specialmente quando visitava le carceri. Lo affermano non solo i prigionieri, ma anche molte persone degne di fede, con testimonianze giurate. E i miracoli ottenuti dalle preghiere di Margherita mettevano in evidenza il suo immenso progresso spirituale, la sua vicinanza a Dio, la sua unione con Dio. E la sua gioia nella sofferenza era l'espressione di un amore senza limiti verso Gesù e verso il prossimo. La sua perfetta, lieta conformità alla volontà di Dio faceva perfino credere ai suoi amici che ella non soffrisse né per la cecità né per gli altri difetti fisici. Fu il caso, per esempio, di Suor Venturella, una delle mantellate. Era afflitta da un tumore a un occhio che minacciava di farla diventare cieca. Si recò da un noto medico, ci viene detto il figlio di Mastro Imberti, che dopo aver esaminato il tumore le disse che non poteva salvare la vista, ma propose una cura. Ma il compenso che chiedeva era così alto che Suor Venturella non aveva la possibilità di esaudirlo. Quindi, non potendo permettersi le cure mediche, piena di angoscia al pensiero di diventare cieca, si affrettò ad andare da Margherita. Probabilmente non si accorse della sottile ironia di andare a cercare conforto per una probabile cecità da una persona che non aveva mai goduto della vista. Margherita comunque non disse nulla, ascoltò con molta compassione questa sua amica, e quando Venturella, angosciata, ebbe finito di raccontare i suoi guai, Margherita le chiese dolcemente: «Accetta questa sofferenza. Era una prova che Dio le dava per avvicinarla a lui e farla progredire su un cammino di santità». Cercò di convincerla in questa, capiva del perché di questa malattia. Ma vedendo che continuare la discussione su questo tono era inutile, Margherita tese la mano e disse: «Posa la mia mano sul tuo occhio». Venturella, credendo che volesse verificare la grossezza del tumore, fece quello che Margherita le chiedeva. Ebbene, ci dice il biografo che nell'istante in cui la mano di Margherita toccò l'occhio malato, il tumore sparì e la vista di Venturella divenne perfetta. Arriviamo così, cari amici, anche al principio del 1320. Gli amici della nostra beata si accorsero che non sarebbe rimasta ancora molto tempo con loro. Era ormai così trasformata che aveva completamente dimenticato se stessa e pensava solo a Dio e alla sua gloria, benché soffrisse molto. Voi pensate soltanto alle morta per consunzione, perché si privava di qualsiasi cosa, era sempre pronta ad andare in qualsiasi luogo per aiutare, non dormiva quel minimo indispensabile quando dormiva, quindi oltretutto aveva insomma dei problemi, quindi non aveva una salute di ferro, ma benché soffrisse molto, mai una parola di lamento, mai un'espressione di dolore uscì dalle sue labbra, ci viene detto. L'aspetto sempre sereno e il dolce sorriso non ingannavano però i suoi amici, e Margherita stessa vedeva avvicinarsi la morte con una tranquillità piena di gioia. Il lungo esilio, lontana dal suo Dio, stava per terminare. Pregò Monna Gregoria di far avvertire i frati domenicani perché come figlia di San Domenico potesse ricevere gli ultimi sacramenti da un figlio di San Domenico. La notizia intanto si diffuse rapidamente per la città. Le mantellate accorsero alla casa di Venturino, dove lei abitava, ad assistere con la preghiera la loro compagna nelle sue ultime ore. Uomini e donne si raccolsero davanti alla casa, aspettando ansiosamente notizie della loro cara. Alcuni parlavano sottovoce, ricordando episodi della sua gentilezza, della sua pazienza, del suo coraggio. Altri si inginocchiavano sulla strada pregando, senza vergognarsi delle lacrime che scorrevano abbondanti sui loro volti. Il biografo confessa che è al di sopra della sua capacità descrivere l'amore supremo e la devozione con cui Margherita ricevette gli ultimi sacramenti. Dopo che ebbe ricevuto l'estrema unzione, i domenicani e le mantellate cominciarono le preghiere per i moribondi, ma Margherita non udiva più, era rapita nella contemplazione di Dio, e così morì, abbracciata, possiamo dire, a Gesù. Era la seconda domenica dopo Pasqua, il 13 aprile 1320, Margherita aveva 33 anni.